Storie, storielle, storiacce. Sollevato dall'assoluzione in primo grado al processo per la morte del banchiere Roberto Calvi, Flavio Carboni è un fiume in piena. Parla dei danni subiti, attacca la famiglia del banchiere e soprattutto ci dà la sua lettura di quegli intricati fatti lontani quasi 30 anni. Carboni ci ha raccontato il giorno in cui conobbe Calvi ai tempi di un suo interessamento per il Corriere della Sera, operazione questa nel mirino anche di Licio Gelli. No, ma io con me Licio Gelli, io non conosco Licio Gelli, non ho avuto nessun rapporto con la P2, non credo che se ne sia occupato, e se se ne è occupato non c'entro io con quel giro, con quelle persone, non c'entro nulla, voglio dire, né per disprezzarle né per apprezzarle. Noi ce ne occupavamo per conto nostro, è vero, si trattava di un'operazione autonoma, dichiarata, nulla di nascosto, tutta alla luce del sole, lo era e lo è. Poi quando si vuole creare il mistero, tutto diventa misterioso. Ed è la forza, l'unica e la sola che può valere, purtroppo, in questi casi. Non la verità, mi creda, è la forza. E a chi giovava, secondo lei, creare tutto questo? Ma io intanto credo che il Banco Ambrosiano, tutto ciò che ha fatto Ambrosiano, sia stata una grande rapina. Io credo. E poi probabilmente ci possono essere anche motivi di ordine politico, visto che c'era il Vaticano di mezzo. Il momento in cui, come tutti sappiamo, il contributo maggiore per la caduta di Berlino, chi l'ha dato? E io che di chi ero, chi frequentavo all'epoca? Ecco, questa può essere una causa, ma questi sono fatti. Ecco, invece no, mi hanno attribuito tutte cose che non so neanche da come cosa non sapevo cosa dire. Comunque io ringrazio quella magistratura che si è occupata di me e che infine mi ha reso giustizia, malgrado il tempo trascorso. Come è cambiata la sua vita dal delitto Calvi, dal caso Calvi, visto che lasciamo aperta, diciamo, l'ipotesi? Sì, mi rifiuto di chiamarlo omicidio Calvi. È vero, mi rifiuto perché non ci credo, semplicemente per quello, non perché mi fa comodo, perché non ci credo. O forse sono quello che può dare più elementi per credere nel suicidio, visto che sono uno degli ultimi che ho sentito quell'uomo e ne conoscevo la gravità. E io credevo che la famiglia mi sarebbe stata vicina, al contrario, è stata la mia più grossa avversaria, considerando oltretutto che lui dalla famiglia, in particolare del figlio, non aveva nessuna stima e l'ho detto subito dopo arrestato, quando piangendo mi disse ho un figlio indegno, lo dissi subito dopo l'arresto, perché mi regalò un orologio dicendo che ero io l'unico che ancora mi ero dimostrato disponibile a dargli una mano. Ma lui gli aveva mai confidato qualcosa che potesse far presagire ad un suicidio, se è questa la tesi? Tra posteriori, quando ci si pensa, uno può dire anche ma forse quando parlava si occupi anche della mia famiglia, forse, ma non potrei dare una risposta precisa. Forse ripensandoci io, ma non mi fido neanche di questi, neanche di me stesso in questo caso, ma poteva anche essere. Perché non mi soffermavo io sulla questione? Per me Calvi doveva campare assai lungo, se aveva un interesse economico anche per quello. E invece di sentirsi spaventato, minacciato, sentimenti del genere Calvi li aveva mai confidati con lei? Ma così si dice al processo, io non credo assolutamente neanche una parola. Lui si è spaventatissimo per il processo e spaventatissimo per i soldi che doveva restituire allo IOR stesso, pensi, quindi patronage, le lettere, queste e quelle. Io credo che ci sia stata la più grande rapina del secolo, ma non perché ho misteri particolari, io credo che si poteva salvare tutto, ecco, in questo senso. E chi è che non ha voluto salvare il Banco Ambrosiano? È una domanda veramente importante la sua, ma io credo che gli interessi a non volerlo salvare forse erano maggiori di quelli che forse volevano salvarlo, oppure c'è da dire anche una certa cecità, una certa ottusità da parte di chi aveva interesse invece a sostenerlo nell'economia della situazione. Secondo me, ecco, Marcin, Cusimini ed altri avrebbero fatto bene a non allontanarle così Calvi, secondo me, cioè, anche se Calvi, io credo, qualche peccato e non piccolo l'aveva commesso ai loro danni. Ad esempio quello che appunto, cioè, doveva dare dei soldi, questo delle lettere che le aveva chieste così per acquistare nuovamente credibilità, perché era stato arrestato e lui chiedeva questo. Il Banco Ambrosiano si poteva salvare, dice Flavio Carboni, ora che la Corte d'Assise di Roma ha assolto lui e gli altri 4 imputati nel processo per la morte di Roberto Calvi dall'accusa di omicidio. Ringrazia la magistratura e i suoi avvocati, l'imprenditore, mentre non manca di ricordare quanti hanno preso le distanze da lui, soprattutto nei palazzi del potere. Il caso mi ha trasformato nel senso più, come dire, che c'è stata una maturazione molto rapida, ma intanto mi ha devastato la mente, il corpo e tutto ciò, e il patrimonio che avevo, e mi creda se le dico che era ingente, e tutto il mio vantaggio è stato quello di perdere, da quando avevo, mi potevo considerare ricco, lasci stare con molta, con poca liquidità, ero una persona che aveva un grande patrimonio e guadagnavo abbastanza, non, se no non mi potevo permettere aerei, barche eccetera eccetera, allora, e non mi potevo permettere anche di dare una percentuale dei miei guadagni a chi ne aveva più bisogno, mi creda, non voglio apparirle buono, ma questo facevo e lo continuerò a fare se Dio vuole che mi darà possibilità di farlo. Comunque mi ha ridotto, come puoi immaginare, distrutto, usando una parola forse esagerata, ma forse no, perché se sono vivo non è tanto perché non ci sia stata un'azione di corrosione profonda, ma quanto, guardi, credo più nel miracolo che nei meriti del mio fisico e della mia forza spirituale, e credo davvero in questo, un tipo di religiosità che forse è la cosa che mi ha sostenuto, e anche perché facevo molto sport, quindi anche fisicamente ero allora. Era allenato e preparato. E invece, ma non ha questo tipo di sofferenza in ogni caso. E invece dalla politica ha mai avuto un qualche sostegno o appoggio, oppure se se lo aspettava e non c'è stato? Non ne ho chiesto a nessuno e nessuno è venuto a fare niente. Le risulta che io abbia mai chiesto o chiamato in causa qualcuno. Ho avuto una vita intensa, l'ho avuta una vita intensa, intensissima, e tutti quelli che collaboravano con me, compreso quel meraviglioso essere che ha lasciato l'Italia, che era l'ambasciatore venezuelano in Italia, che aveva dato il petrolio, lo chiamavano l'ambasciatore senza, il mediatore senza tangenti, dopo lo scandalo Petromin, il petrolio senza volere una lira. Nestor Cole, una persona meravigliosa, che era mio amico e socio, e così altri. C'è qualcuno nei confronti del quale ha provato amarezza per una, diciamo così, per un allontanarsi, per una distanza presa dopo il suo coinvolgimento nel processo? Non sono abbastanza stupido per non capire che non basta l'innocenza e non basta essere stati buoni, ottimi, non basta nulla quando succede qualcosa. C'è una sorta di allontanamento naturale, ed ecco perché io non sono andato a questuare nulla. Io credo che sarebbe stato dovere di chi sapeva tutto, senza bisogno che lo chiamassi io. E io non ho chiamato nessuno. Alle loro coscienze il giudizio, sia di allora che di oggi. Comunque, eccomi qua, dirle ancora una volta che è vero, da un lato dico tutte queste cose e dall'altro evidentemente c'è chi rende giustizia, anche se purtroppo talvolta passa un quarto di secolo, come quello che è trascorso. 25 anni sono passati da quel 18 giugno 1982, quando fu trovato a Londra il corpo senza vita di Roberto Calvi, ma su quella morte oggi non c'è ancora alcuna certezza.